Alla trattoria del Gallo Nero. Buongiorno, signor Lucchini. Come va? Bene, grazie. E lei? Bene, bene. Venite, questo è il vostro tavolo. Siete in quattro, vero? Sì, siamo in quattro. E che prendete da bere? Prendiamo un po' di vino? Sì, un rosso della casa. Va bene per lei, Sara? Red wine? Oh, sì, va bene. Allora un litro di vino rosso della casa e dell'acqua minerale. Naturale o gasata? Per me uguale. Anche per me. Sara? Naturale per me, per favore. Naturale, allora. Benissimo. Andrea, ma conosci il cameriere? Non è il cameriere, è il proprietario. Lo conosco da anni, perché mangio spesso qui. Ah, allora che mangiamo? Sara deve assaggiare la fiorentina. What's la fiorentina? È la famosa bistecca con l'osso. The steak with the bone. È squisita. Oh, yes, I've heard about it. Ok. Perché no? Allora ordino io per tutti. Ecco l'acqua e il vino. Signor Giuseppe, vogliamo mangiare la fiorentina. È la nostra specialità. Fiorentina per tutti? Sì, con dell'insalata mista e, mentre aspettiamo, un po' di crostini toscani. Perfetto, ottima scelta. I thought you had a problem with the T-bone steaks because of the mad cow disease. Ah, Sara ha paura della mucca pazza. Non si preoccupi, l'unico pazzo qui è Andrea. Scusate, è il mio. Pronto? Sì, cara, sì. Sì. No, no. Sì, sì. Lo so. Ci vediamo stasera. Sì. Ciao, ciao. I bambini. Come stanno i tuoi figli? Marina ha due bambini bellissimi. Two beautiful children. Oh, really? Stanno bene. Sono a casa con la babysitter, ma non vogliono mangiare. Lei ha figli, Sara? Figli? Bambini? Sì, bambini. No, non ho bambini. Lorenzo, lei ha bambini? Io ho Penelope. Lei è bella e affettuosa. Penelope is your little girl? Little girl, no. Penelope è la gatta di Lorenzo. Oh, I see. Oh, that's wonderful. Meraviglioso. Meraviglioso? Avere un gatto? Allora io ho due gatti. Sì, è una moglie. Ecco le bistecche. Evviva! Evviva! E adesso abbiamo bisogno di un caffè. Va bene? Per me sì. Anche per me. Sorry, can I have a cappuccino, per favore? Un cappuccino? Dopo pranzo, dopo la fiorentina e il Chianti. No. Mi dispiace, è severamente vietato. Al massimo un caffè macchiato. Beh, io e Sara dobbiamo andare. Fra un quarto d'ora abbiamo un appuntamento con il dottor Vannini, il direttore commerciale dell'antica cantina. Bene, buon lavoro. I'd like to pay the bill. Il conto? No. Offre Italia Bella, vero, Andrea? Certo. Oh, grazie mille. It's been squisito. Ah, Andrea, torni a Firenze con Marina, vero? Ma io... Ciao! Ciao a tutti!